poi tutto scompare. Tutto l'oro del mondo non potrà mai comprare uno sguardo tuo così. Io continuerò a nuotare tra l'asfalto e i cieli limpidi. Ti porterò dove c'è il sole, calore infonderò dove è tutto perso, per darsi strada verso nuova terra da solcare. Quando poi tutto scompare, io ci sarò tra le stelle e il mare. Io ci sarò quando poi tutto scompare. Tutti i diamanti del mondo non compreranno questa poesia e non sapranno arricchire mai il calore profondo di questa nobile melodia. Ti porterò dove c'è il sole, calore infonderò dove è tutto perso, per darti strada verso nuova terra da solcare. Come un figlio tuo verrò dalle tue mani quando vedrò il mondo tuo tornare, che tornando mi insegnerà a vedere oltre una stupida veste buona, perché il dolore sta sotto dove il vuoto non ha volto. Io ci sarò tra le stelle e il mare, io ci sarò quando poi tutto scompare. Io ci sarò tra le stelle e il mare. Io ci sarò quando poi tutto scompare. Io ci sarò tra le stelle e il mare. Io ci sarò quando poi tutto scompare. Potrà mai comprare uno sguardo tuo così. Io continuerò a nuotare tra l'asfalto e i cieli limpidi. Ti porterò dove c'è il sole, calore infonderò dove è tutto perso, per darti strada verso nuova terra da solcare. Come un padre la mano prenderò quando vedrò il mondo che t'abbandonerà, imparando a vedere buona, perché il dolore sta sotto dove il vuoto non ha volto. Io ci sarò tra le stelle e il mare. Io ci sarò tra le stelle e il mare. Io ci sarò quando poi tutto scompare.